Hola amigos y amigas, soy Lola. Hoy iniciamos un curso de español. Hoy vamos a ver la primera lección. Práctico, ¿verdad? Nel buio metropolitano, ferme ad un incrocio, due auto una dietro l'altra. Quella davanti però si è fermata un po' troppo avanti. Il conducente che segue vede ancora il semaforo rosso e per scherzo da un colpo di clacson. La donna non sente da un colpo di clacson. La mora si sveglia, fa un cenno di scuse e poi parte a tutto gas. Muoiono tutti, l'unico test è il musicista ancora con le mani sul volante. Si sente mancare, gli viene da vomitare. Scende barcollando tra le cose che hanno preso il volo. Sente che da quel momento è un uomo solo. Raccoglie un foglio su cui non si legge nulla, tranne che qualche parola. Insegnante di lingua spagnola. Soy Lola. Le mani sul volto e un pensiero fisso, dirò alla polizia che non è colpa mia, non è colpa mia, non è colpa mia. Non riesco a raccontare ad amico o familiare, spero che presto si disperda il ricordo di questo nella memoria. Tutte le notti sogna la propria mano che diventa rossa dalla vergogna. Vive i suoi giorni tranquillo, aspetta di invecchiare, non pretende gioia, a lui basta non sentir dolore, a lui basterebbe non pensare. A lei che chiede scuse parte a tutto gas, si inventa filastrocche per coprire chili di memoria e gioca coi ritagli di giornale, vuole battere ogni record nel dire pollo alla diavola velocissimo, pollo alla diavola, pollo alla diavola, pollo alla diavola, pollo alla diavola. Filastrocca di oggi, filastrocca di ieri, chiudi la diga dei brutti pensieri. Le mani sul volto e un pensiero fisso, tu lei era attraversare senza guardare, senza guardare, senza guardare. Non riesco a raccontare ad amico o familiare, spero che presto si disperda il ricordo di questo nella memoria. Filastrocca di oggi, filastrocca di ieri, filastrocca di oggi, filastrocca di ieri, filastrocca di oggi, filastrocca di ieri. Clase de español, clase de español. Filastrocca di oggi, filastrocca di ieri. Uno di voi due sa parlare spagnolo?